Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo anche del Jobs Act, nel senso che fa molto discutere il fatto che non serva accordo o l'ok del Ministero per i controlli a distanza attraverso il PC e i telefonini per l'assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati. Questo per capire com'è la prestazione lavorativa. Il tema è come il Jobs Act stia modificando e modifichi lo statuto dei lavoratori sui controlli a distanza, nel giorno in cui l'Istat fa sapere che un primo effetto del Jobs Act c'è sull'occupazione, in un contesto comunque di ripresa dei livelli di attività economica. C'è stato un boom nei primi tre mesi dell'anno, lo segnala l'Istat, che, ripeto, con massimo rispetto per il Ministero del Lavoro e per altre fonti, utilizziamo come unica fonte, diciamo, ufficiale di riferimento. L'Istat ha fatto sapere che nei primi tre mesi del 2015 c'è stata una forte crescita dei lavoratori assunti nelle imprese ex interinali, più 18,8%, e anche rispetto ai tre mesi precedenti. Invece, per quello che riguarda i dipendenti dell'industria, ahimè, il dato è ancora negativo, meno 2,8%, e ancora forte il calo nel settore forse in assoluto più massacrato dalla crisi e da quello che ne è conseguito, il settore delle costruzioni. Meno 5,3% l'occupazione in quel settore. Anche di questo parleremo in apertura. Poi la borsa, che oggi è attendista, diciamo così, adesso spiego anche perché di questa definizione: meno 0,11% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,20% Francoforte, Londra invariata, il Dow Jones più 0,20%. Attendista nel senso che io non so se sia un effetto quasi di quasi anestetizzante il continuo rincorrersi di dichiarazioni sulla Grecia. Fatto sta che oggi, pur a fronte di dichiarazioni pesanti da parte del leader greco Tsipras, che ha detto siamo pronti a dare un grande no a un cattivo accordo, dopo l'incontro con il cancelliere austriaco Faymann, poi ha aggiunto Tsipras, la nostra proposta soddisfa le esigenze delle istituzioni. E invece l'Unione Europea risponde: le istituzioni hanno fatto grandi concessioni su tutte le questioni di bilancio e non solo. Dicevo, la borsa non reagisce, anche perché forse si sta anestetizzando questa rida di reazioni. Devo dire che comunque siamo a poche ore dall'Eurogruppo, dal vertice dei ministri economico-finanziari di domani, ed è arrivato anche un avvertimento drammatico della Banca Centrale Greca, che è autonoma, come dovrebbero essere tutte le banche centrali, dal governo. Nel rapporto annuale sulla politica monetaria ha definito l'accordo tra la Grecia e i suoi creditori della massima importanza, ammonendo che in caso di fallimento del negoziato ci sarà una crisi incontrollabile, con l'uscita del paese dall'euro e molto probabilmente anche dalla stessa Unione Europea, e quindi non solo dall'euro ma dalla stessa Unione Europea. Ancora per quello che riguarda il tema di borsa, dicevo, oggi la borsa è poco mossa. In realtà tra i titoli notiamo ST Microelectronics meno 2,1, Azimut meno 1,90, Uniposai meno 1,50 come Jux, Finmeccanica, Fiat Chrysler meno 1,30 come Saipem, fronte opposto Monte dei Paschi di nuovo, meglio del resto, più 2,52% dopo che si è chiuso col 100% di adesioni, l'aumento o meglio è stato sottoscritto al 100% l'aumento del capitale, A2A più 2,20, Banco Popolare più 1,20, Telecom più 1 come Autogrill, lo 0,90 lo guadagna Campari. Ancora per quello che riguarda l'euro siamo a quota 1,12 sul dollaro. Ascolteremo anche, visto che parliamo di Europa, l'intervento che avevo già anticipato e annunciato nel corso degli Edison Open for Expo, incontri con grandi esponenti dell'economia, premi Nobel e quant'altro, proprio sul tema della convergenza europea, della divergenza e dei problemi, degli squilibri presenti all'interno dell'Europa, l'economista Michael Landesmann del Vienna Institute for International Economic Studies, alcuni passaggi particolarmente a mio avviso significativi. E poi l'ultimo numero è quello per i vostri sms, 349-238-6666, e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Dalla Germania la notizia che risale il tasso di interesse dei BTP, Bund decennali a 10 anni, ai massimi da ottobre, il rendimento è allo 0,81%, assegnati 2 miliardi e 400 milioni oggi. In Gran Bretagna invece la disoccupazione resta ferma al 5,5%, un tasso invidiabile per la maggior parte dei paesi dell'area euro. Continua a calare in Gran Bretagna il numero dei disoccupati, 43.000 in meno. Ancora per quello che riguarda la Grecia, ripeto, avremo un approfondimento su questo. C'è stata una dichiarazione del vicepresidente della commissione responsabile per l'euro, Valdis Dobrovskis, che ha detto: è comprensibile che gli stati siano nervosi e i greci devono capire quello che vogliono, non solo quello che non vogliono. Indeed, the European Commission has been working very hard to facilitate the agreement between Greece and creditors. Senza dubbio, la Commissione europea ha lavorato molto duramente per facilitare un accordo tra la Grecia e i creditori. A questo punto si può dire che ciò che è necessario è la volontà politica da parte greca di fare lo sforzo finale per arrivare a un accordo. È importante che la Grecia non comunichi solo cosa non vuole fare, ma anche quello che vuole fare. Attualmente non stiamo programmando alcun incontro, oggi o domani, visto che domani c'è l'Eurogruppo, in cui i ministri delle finanze si renderanno conto dello stato dei negoziati. Noi non ci addentriamo in speculazioni, ma capiamo che gli stati possano essere, a ragione, nervosi, perché siamo a metà giugno e il programma di aiuti scade a fine mese. Ci sono certamente discussioni su scenari poco favorevoli, ma questo non è assolutamente il nostro obiettivo. E non siamo concentrati su questa eventualità. But that's definitely not our aim and something what we are not focusing ourselves on. Eppure qualcun altro ci si sta concentrando su questa eventualità, stando a quanto riferisce l'agenzia di stampa Bloomberg, citando due deputati tedeschi che avrebbero partecipato a un incontro all'interno di una commissione parlamentare con il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Schäuble avrebbe detto in questo incontro che il governo tedesco si sta preparando o sta preparando piani di contingenza nel caso del fallimento dei negoziati con la Grecia di fronte all'impossibilità di chiudere un accordo entro il 30 giugno. Schäuble comunque avrebbe detto di sperare comunque e sempre in un accordo. Ci sarà oggi un colloquio tra Varoufakis e il segretario generale dell'Ocse Gurria, ma insomma non ci si attendono novità, dovrebbe iniziare in questi minuti. Nel frattempo il nostro spread resta a 150-151 punti, la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi alla Germania. Ancora sul commercio estero, il dato italiano di oggi segnala ad aprile esportazioni in aumento del 9% rispetto a un anno prima, e l'attivo commerciale, il surplus commerciale è in crescita a 3,7 miliardi, l'avanzo commerciale, contro i 3,5 di un anno fa. Al netto dell'energia la bilancia risulta positiva per 7 miliardi. L'attivo comunque nei primi 4 mesi, l'avanzo commerciale raggiunge 11,5 miliardi, spingono le nostre esportazioni, in particolare le vendite di auto negli Stati Uniti, e lo rileva appunto l'Istat, una marcata crescita delle esportazioni di autoveicoli, più 51%. Ma anche i metalli di base, i prodotti in metallo, esclusi le macchine e gli impianti, i macchinari, gli apparecchi, i prodotti alimentari contribuiscono a questo dato sull'export. Allora, per quello che riguarda l'Expo, oggi chiaramente, come vi racconta il nostro GR24 con la nostra Livia Zancaner, l'Expo è soprattutto l'incontro Cameron-Renzi e poi anche l'arrivo a Milano di Michelle Obama, il corso di cucina, leggevamo prima le agenzie, con gli studenti anche americani. No, la cosa importante è che oggi si è saputo dal misuratore Nielsen Expo Advertising Tracking che tra gennaio e maggio le oltre 80 aziende che sono sponsor e partner di Expo hanno investito in pubblicità complessivamente circa 55 milioni di euro per comunicare il proprio coinvolgimento all'Expo. A gennaio il budget aumentava a circa 9 milioni, a maggio gli investimenti erano già raddoppiati. Oh, adesso arriviamo invece al sì, giustamente c'è anche il tema della corruzione qui. Avete visto che, o spero sentito dai nostri GR24, che sono 44 tra funzionari e dirigenti di RAI, di società del gruppo Mediaset, di La 7, in fronte a essere indagati a Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento di lavori e servizi in cambio di utilità come soldi e assunzioni. La Guardia di Finanza ha eseguito 60 perquisizioni, ci sono anche funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra gli indagati per irregolarità nei lavori affidati all'imprenditore Davide Biancifiori. Avrebbero preso soldi per una commessa da 8 milioni di euro per allestire alcuni eventi e sono accusati di corruzione. Tra gli indagati anche Roberto Gasparotti, già curatore dell'immagine di Silvio Berlusconi in cui il leader di Forza Italia era capo del governo, e Giovanni Mastropietro. E la RAI ha chiarito che garantirà massima collaborazione all'autorità giudiziaria. L'area interessata dalle indagini era già stata peraltro oggetto di verifiche interne che hanno comportato interventi organizzativi e disciplinari, ha fatto sapere la RAI, mentre la 7 ha detto che sta valutando se addirittura non costituirsi parte civile, ipotizzando una protezione indebita ai danni del gruppo la 7. Vedo che alcuni sono così interessati allo scherzo della zanzara sul mio portafoglio. Ragazzi, era uno scherzo, non è che Giuseppe Cruciani si mette a contare il mio contante o le tessere. Cercheremo di stare più attenti. Non mi sembra, insomma, che è vero che in questo programma si parla di economia e di finanza, ma non mi sembra che il mio portafoglio rientri tra questi temi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Visto che adesso parleremo anche di novità introdotte, se volete di carattere tecnologico, ma che vanno a modificare in maniera anche netta quello che è lo statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act, visto che si parla di tecnologia, c'è una notizia interessante che riporta il Wall Street Journal e che riguarda il colosso Amazon, che starebbe cambiando strategia e si preparerebbe a trasformare l'uomo della porta accanto nel professionista che consegna i pacchi del colosso a tutto il vicinato. Ossia, sta sviluppando Amazon un'applicazione attraverso la quale pagare le persone che si candideranno a fare le consegne. La notizia è una nuova mossa del gruppo per tagliare i costi alla parte più costosa. Amazon vende libri, ma non solo, e si acquistano online. È chiaro che la parte più costosa è anche per loro l'ultimo miglio, cioè la consegna porta a porta del pacco, del libro acquistato. Proprio su questa innovazione si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore oggi, a firma del vice direttore Salvatore Padula. Sono trasmessi, lo ricordo, anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. La tecnologia sta modificando i nostri stili di vita, ma sta anche cambiando i criteri che guidano le scelte economiche dei cittadini e delle imprese. Valga per tutti l'esempio di Uber Pop, l'applicazione che ora è stata bloccata dal Tribunale di Milano, ma che insomma mette in contatto chi cerca un passaggio in città e un autista disposto a darlo. Al di là del caso specifico, quello che emerge è che il modello Uber è replicato in molti altri ambiti, e anzi a una specie di Uber per le consegne a domicilio sta lavorando Amazon, il colosso mondiale dell'e-commerce, impegnato a trovare soluzioni più economiche e più rapide per la consegna dei beni acquistati su internet. L'idea è quella di una nuova app grazie alla quale i beni comprati online verranno recapitati dai normali cittadini, i quali si iscriveranno a questo servizio e potranno consegnare i pacchi a indirizzi, come dire, sul loro percorso. Il nuovo servizio si chiamerà infatti On My Way, quindi non saranno più solo le società specializzate a fare le consegne, ma tutti potranno trasformarsi in fattorini ricevendo in cambio un compenso. Amazon non è sola, Google ha avviato un servizio per la consegna di cibo a domicilio, una cosa simile sta facendo Uber con Uber Eats. Insomma, è un nuovo esempio di sharing economy, l'economia della condivisione, che grazie alle tecnologie sta crescendo in tantissimi ambiti e a ritmi forse inimmaginabili. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Adesso parliamo di Jobs Act, ma attenzione, voglio fare una piccola nota. Purtroppo, o per fortuna, insomma, questo programma si occupa della cronaca in primo luogo, dell'attualità economica e finanziaria. Dico purtroppo perché delle volte sarebbe bello riuscire anche a respirare, ma non mi sembra che sia aria in questi mesi, e fare dei ragionamenti anche più di lungo periodo. Lo dico perché Salvatore Padula citava l'economia della condivisione. Beh, uno dei grandi driver, come dicono quelli che hanno studiato, delle grandi, diciamo, linee guida per interpretare l'economia del presente, prossimo e anche del futuro, è questa, cioè economia della condivisione. L'altra categoria così paradigmatica è l'economia dell'uso e non del possesso, e qui ci inseriamo anche nel tema del car sharing, di tutti i beni che vengono noleggiati e non acquistati, quindi condivisi, utilizzati, pagati, ma non il possesso, l'utilizzo e non il possesso. Lo dico perché su questi binari si muoveranno le sfide del futuro. Poi noi ragioniamo sempre del nostro piccolo presente, degli sprechi, delle malversazioni, delle polemiche politiche, però è giusto anche ricordare, visto che siamo in fase di maturità, ai ragazzi, che quelli sono le grandi chiavi interpretative di cosa succederà al mondo economico, che non vuol dire che scompariranno del tutto le vecchie categorie e il mondo del possesso e nessuno acquisterà più niente, ma è un po' diverso il valore aggiunto che ci metti. Abbiamo fatto anche qualche puntata su questo, ed è un po' diverso dove vai a attribuire valore aggiunto. Lo attribuisci al possesso di un bene o al suo utilizzo, pagando si intende per l'utilizzo. Lo attribuisci al servizio o lo attribuisci semplicemente allo status? Lo attribuisci in questo caso alla condivisione, quindi ricerca sia di finanziamenti, crowdfunding, che di idee, che quant'altro. Ce lo raccontano bene i nostri imprenditori delle startup del venerdì. Oppure l'economia in cui tu faccio tutto mio, sono io da solo e divento grande da solo. Ecco, tutto si sta spostando verso quel livello. Condivisione, uso e non più individualismo e possesso. Con una fortissima connotazione in quello che è il capitale umano delle persone. Ora, può sembrare strano che lo diciamo adesso che introduciamo il tema del Jobs Act, ma faccio notare che nelle tracce che oggi migliaia di studenti hanno ricevuto per la prima prova della maturità, nell'ambito socio-economico delle tracce previste, dei temi previsti, cioè è riportata una frase di Ignazio Visco, che a casa mia è governatore della Banca d'Italia, particolarmente attuale, perché dice c'è un nuovo, la sintetizzo, un nuovo pacchetto di competenze che possiamo definire le competenze del ventunesimo secolo. Non sono certo competenze nuove, è una novità però il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione del lavoro e più in generale quanto determinanti sono nella crescita economica. Non dovrebbero essere estranee a un paese come l'Italia, che ha fatto di creatività estero e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti costituisce quindi un'importante sfida per il paese. E le competenze che Visco cita in questo passaggio sono l'esercizio del pensiero critico, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità positiva nei confronti dell'innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l'apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo. Per un paese che ha tantissime qualità, appunto, creatività, ma è anche sempre stato molto individualista, attenzione, bisogna proprio cambiare passo su questo. Ma giusto per respirare ogni tanto, non occuparci solo di Varoufakis, Tsipras, polemiche sul Jobs Act e quant'altro. Però torniamo a bomba sul tema e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professore di diritto del lavoro alla Statale di Milano, nonché membro della Commissione del Lavoro del Senato, senatore Pietro Ichino. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei. Non so se condivide, ma se ogni tanto sarebbe bello anche occuparsi, visto che siamo in fase di maturità e di giovani, di queste nuove competenze e non solo dei vecchi meccanismi, perché poi la cronaca ci riserva la corruzione, la malversazione, gli amici degli amici, il capitalismo di relazione e quant'altro. Però se raccontiamo, visto che va molto di moda il termine narrazione, se questa è la narrazione che dobbiamo fare per i giovani, li stiamo già trasformando in vecchi prima ancora che inizino a lavorare. Allora, mi dia un primo commento, professor Ichino, su quanto sta creando molta polemica, ossia il Jobs Act che modifica lo statuto dei lavoratori sui controlli a distanza utilizzando telefonini e personal computer ai dipendenti. Vengo subito alla domanda che tutti si fanno: cos'è, il grande fratello oppure è così utilizzare gli strumenti il grande fratello non lo crea il Jobs Act, è nelle cose, nel senso che noi già oggi siamo connessi costantemente attraverso il cellulare, attraverso i computer, attraverso i cookies che consentono di individuare da dove ci colleghiamo e così via. Lo statuto dei lavoratori, l'articolo 4 che regolava il controllo a distanza, è stato scritto e è entrato in vigore nel 70, quando non solo non esisteva internet, ma non esisteva neanche la fotocopiatrice, non esisteva la calcolatrice elettronica, sì, le calcolatrici erano degli oggetti pesantissimi con tanti ingranaggi, sì, dentro che facevano i conti, mm-hmm, facendo girare gli ingranaggi. Ecco, questa era la situazione nel 70. In quella situazione il legislatore ha detto se si introducono sistemi che consentono il controllo a distanza della prestazione del lavoratore, in linea generale non lo si può fare per controllare il lavoratore, ma quando lo si fa per esigenze organizzative senza quella finalità di controllo, bisogna comunque negoziare la cosa con i sindacati. Questa norma trasferita mezzo secolo dopo significherebbe che un'azienda non può, per esempio, attivare una rete aziendale, non può avere un'automobile collegata con il satellite via satellitare, non può fornire i propri dipendenti di un cellulare senza negoziare tutto col sindacato, ma non avrebbe nessun senso. Allora, quella norma che va reinterpretata e riscritta in relazione alla nuova situazione, dice, resta identica nella sua formulazione iniziale, quindi se si installano le apparecchiature per il controllo finalizzate al controllo a distanza si commette un reato, se si installano apparecchiature che producono come effetto il preterintenzionale non voluto ma possono consentire il controllo a distanza, bisogna contrattare con i lavoratori. Però quando l'attrezzatura è lo strumento stesso di lavoro del lavoratore, non si applica quella norma, perché non avrebbe senso che si debba negoziare col sindacato ogni computer, ogni cellulare aziendale, ma il datore di lavoro deve esplicitare il propri impegni riguardo all'uso delle informazioni che gli vengono, possono derivare dal collegamento a distanza con il lavoratore. Allora, resti con noi, professor Ichino. Ho capito cosa dice lei, è il tema del dover contrattare ogni volta con la rappresentanza aziendale. Resta un tema, insomma, del controllo a distanza, su cui vorrei tornare. Dico già quello che secondo me non funziona in questa norma, come non funziona in tutto il Jobs Act, e cioè il fatto che si applichi solo al settore privato, perché a maggior ragione una norma del genere, io non ho niente in contrario, cioè, se uno non ha la coscienza sporca e sta utilizzando un telefonino aziendale o una macchina aziendale, è giusto che il datore di lavoro chieda per il perché dei chilometri, o possa sapere con le tecnologie attuali come mai la macchina, invece che trovarsi in un certo punto, visto che gliel'ha data al datore di lavoro, si trova in un altro punto, magari è ferma in un certo posto. E lo stesso vale anche per il controllo su telefonini. Quello che non va bene è che tutto questo è sul privato, e sul pubblico siamo all'anno zero, come raccontiamo ogni venerdì. Ma detto ciò, ci risentiamo fra 4 minuti dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. A chi scrive: ma secondo lei, Barisoni, la nostra scuola attuale è in grado di formare competenze come quelle che ricordavo prima? Probabilmente no, non tutta, probabilmente ci sono molte eccezioni e anche virtuose, però se non si inizia a parlarne, a inculcare e a fare il lavoro per cui siamo pagati, cioè informare, non si parte più, e si torna sempre al tema degli insegnanti, del preside, del satrapo, perché ne sceglie tre e sceglie quelli marginali, e non si pensa al cliente, se posso usare questo in senso alto, che è lo studente, non sono gli insegnanti, l'oggetto della scuola sono gli studenti. Meteo. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi. Si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sul tema del Jobs Act, del controllo a distanza. Allora, professor Ichino, ribadiamo ancora una volta perché, secondo lei, che ha contribuito, insomma, a scrivere anche questa legge, comunque a ispirare la riforma dello Statuto dei Lavoratori, si tratta solo di un superamento di una norma messa nello Statuto dei Lavoratori degli anni 70, che chiedeva l'approvazione dei sindacati per qualunque, diciamo, innovazione tecnologica che riguardasse il dipendente, e forse le agenzie nel titolare il controllo a distanza, era quella la norma, diciamo, dello Statuto dei Lavoratori, ma hanno creato un po' di fraintendimento. Vedo che molti sono d'accordo sulla parte del pubblico impiego. Io ribadisco, secondo me è il limite più grosso del Jobs Act. Ichino. Pubblico impiego. C'è una norma chiarissima nel testo unico sul pubblico impiego, articolo 2,2, che dice che nel settore pubblico o c'è una norma specifica che disciplina un determinato istituto, come il licenziamento o il trasferimento o qualcos'altro, oppure si applica la regola generale che è in vigore per i rapporti di diritto privato. Ora, poiché in materia di licenziamenti nel settore pubblico c'è una regola specifica solo per i licenziamenti collettivi, cioè per la riduzione di personale collettivo, ma non per i licenziamenti individuali, fin qui si è pacificamente applicata la regola generale valevole per tutti i rapporti di lavoro privati, cioè l'articolo 18, per i rapporti che si costituiranno da qui in avanti si applicherà la nuova disciplina, salvo naturalmente che nel frattempo venga emanata una norma speciale perché eviti l'applicazione della nuova disciplina del contratto cosiddetto a tutele crescenti. Quando il ministro, e a mio avviso sbagliando, può capitare soprattutto quando abbiamo un ministro che non è giuslavorista, quindi è diciamo un peccato veniale, dice non si può applicare la nuova disciplina perché i rapporti di lavoro pubblico si costituiscono mediante concorso. Ah, ecco, perché si entra per concorso. Questo argomento non sta in piedi per due motivi. Il primo è che si costituiscono per concorso anche i rapporti di lavoro con i dirigenti pubblici e i dirigenti pubblici non hanno l'articolo 18, quindi non è vero che l'articolo 18 è indispensabile laddove ci sia un rapporto costituito per concorso. E secondo non motivo, solo, professore? Rapporto costituito per concorso ha un periodo di prova esattamente come il rapporto privatistico in cui il lavoratore può essere licenziato e in realtà quando fin qui diciamo negli anni passati è stato applicato l'articolo 18, mica è stata applicata una norma speciale del pubblico impiego, quindi diciamo che il problema nella pubblica amministrazione è che non ci sono nuove assunzioni, ma quando ci saranno nuove assunzioni, se non ci sarà una norma speciale, adesso noi vogliamo criticare il ministro Madia prima ancora di aver visto la riforma della pubblica amministrazione che toccherà in primo luogo i dirigenti. Ci sembra che sia un po' esitante anche il tema appunto dell'ingresso con concorso, che era il motivo per cui non si poteva applicare il Jobs Act. Ci sembrava da ignoranti debole, lei ci ha spiegato anche perché da un punto di vista giuridico. Vediamo che riforma partorirà, è una riforma importantissima, lo dico anche per la tenuta del governo come consenso, poi uno fa quello che vuole. Il ministro è giovane, non è né un merito né un demerito essere giovani, quindi l'esperienza serve, un ministro ha un gabinetto, ha dei consiglieri, perché non può avere anche tante fonti per sapere e conoscere meglio eventualmente la materia di cui si occupa. È una riforma fondamentale per capire se il governo fa seriamente anche sulla riforma del pubblico impiego. Intanto grazie al professor Pietro Ichino. Il traffico, poi la borsa oggi la facciamo, lo dico già velocemente perché c'è poca notizia, invece parleremo di un tema che proprio non c'entra con questo, se volete, ma insomma oggi come ogni anno è stata presentata anche la 19ª edizione del World Wealth Report, ossia il comportamento degli individui ad alto reddito, beati loro. Focus Economia. minuti. Allora, la borsa, dicevo, oggi pochi spunti, vi dovrete accontentare di me: meno 0,70% Milano, meno 1% Parigi, meno 0,60% Francoforte. In realtà, ripeto, borse alla finestra in attesa di capire, sfinite anche loro come i nostri ascoltatori, come chi vi parla, dalla saga greca. E a questo punto non si espongono quasi nemmeno, faccio notare che al di là dell'indice ci sono pochi titoli che si muovono in maniera significativa, sono sostanzialmente 5: Monte dei Paschi più 4,70, A2A più 1,95, Campari siamo già al più 0,90, Autogrill più 0,60. Il fronte opposto invece è rappresentato da ST Microelectronics meno 2,60 come Azimut e Finmeccanica meno 2%. Poi, se vogliamo andare su chi cede, ma in alcuni casi si tratta anche di realizzi, Fiat meno 1,80, come CNH Industrial, UX meno 1,70, debole Unicredit meno 1,70, Prismian meno 1,50%. Telecom, visto che ieri abbiamo avuto il presidente Recchi dopo lo scioglimento della holding telco e l'offerta, il collocamento di Inuit che gestisce le torri di trasmissione, Telecom andava bene tutto il giorno e ha chiuso con un più 0,45%, più bassa di come andasse, diciamo, nel resto della seduta. Il miglior titolo: Industria e Innovazione più 7,80, Classe Editori più 6,90, Esprinet più 6,70%, Bioera più 5,56. Fronte opposto: Banca Intermobiliare meno 13,6, Grandi Viaggi meno 17, EMS meno 10,1%. E faccio notare che su A2A un po' di notizia c'era, siglata oggi la lettera di intenti per la fusione con Lina Group, era Multiutility che opera nella bassa Lombardia, Cremona, Lodi, Pavia, e riapre il tema del consolidamento delle utilities. Adesso un report che farà arrabbiare molti, però viene pubblicato ogni anno, a noi interessa per capire, insomma, come vivono. Come si chiama quella vecchia telenovela, Anche i ricchi piangono, insomma, come vivono persone che obiettivamente è difficile chiamare come rappresentanti dell'attuale situazione economica. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Sì, perché stiamo parlando di chi ha almeno asset, chi possiede almeno $1 million, escludendo la sua casa principale, le collezioni e i beni di consumo durevoli. Ecco perché il nostro sogno è molto facile, è essere come loro. Il rapporto lo fa ogni anno Capgemini, si chiama Rapporto sulla ricchezza mondiale, lo riprenderemo anche dopo il GR24, perché poi, parlando di Grecia, il volo è quanto mai pindarico. Però Andrea Falleni, direttore operativo e responsabile del mercato finance di Capgemini Italia, buonasera. Buonasera. Ecco, il titolo che esce dal rapporto di quest'anno qual è? Sulla ricchezza, abbiamo visto un aumento di 920.000 nuovi milionari a livello globale. Dove? Beh, la parte del leone l'ha fatta sicuramente la regione Asia-Pacifico, Asia-Pacifico. C'è stato un aumento di circa l'11%, poi abbiamo avuto un aumento dell'8% nel Nord America, che rimane comunque la prima regione in termini numerici di milionari, e poi una crescita, direi, in linea un po' più bassa in Europa. L'Italia ha avuto una crescita importante in linea subito sotto il Nord America di circa il 7,7%. Oh, allora c'è una parte del paese piange e soffre, non è retorica, è così, e una parte del paese si è invece arricchita, perché sono saliti del 7% gli italiani ad alto reddito. Erano 203.000 nel 2013, 218.000 l'anno scorso, senza che questo si veda però nelle dichiarazioni dei redditi. Qui apriamo il tema della lotta all'evasione, ma non voglio entrare su questo. Resti con noi invece dopo il GR24, perché capire dove si creano nuovi ricchi è importante, anche banalmente, per buona parte del nostro Made in Italy, e dove andare a puntare, visto che i nuovi ricchi hanno consumi alti e che intercettano spesso il Made in Italy. Dopo il GR24. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. State ascoltando un programma offerto da Bomi, si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta, dicevamo il sogno, visto che stiamo parlando del rapporto annuale sui ricchi individui ad alto reddito, High Net Worth Individual, HNWI, così si chiamano in inglese. 19° rapporto pubblicato da Capgemini, che fa consulenza a livello mondiale, e si chiama World Wealth Report. Il responsabile del mercato finance di Capgemini Italia, Andrea Falleni, che è in collegamento con noi, ci ha appena spiegato come il grosso dell'incremento si sia registrato in Cina e in India. Cina e Stati Uniti hanno metà della crescita globale della popolazione di individui ad alto reddito. L'India è il primo posto per la crescita sia della popolazione, 26%, che della ricchezza, grazie anche all'andamento del mercato azionario. Poi segue la Cina, che ha cresciuto popolazione e patrimoni di individui ad alto reddito rispettivamente del 17% e del 19%. L'America Latina è l'unica regione che ha segnato una diminuzione sia del numero che della ricchezza degli individui ad alto reddito, come conseguenza anche dell'andamento dei mercati azionari. In Europa più 4%, in Italia più 7,7%. La battuta sull'evasione, è chiaro che in molti casi possono essere altre forme, però è innegabile che nel 2014 l'Italia abbia avuto un aumento del 7,7% degli individui ad alto reddito, 218.900 persone che vengono così definite quando hanno un patrimonio superiore ad almeno $1 milione, escludendo residenza principale, collezioni e beni di consumo durevoli. Falleni, dove investono? So che la cosa un po'. Dove investono questi individui ad alto reddito che una volta si chiamavano ricchi o molto ricchi? Dal nostro studio risulta che una parte importante va su titoli azionari, la ricchezza delle borse, un 27% del portafoglio sui titoli azionari, e una parte molto importante, circa il 26%, viene tenuto come liquido, anche perché rimane alta l'esigenza di mantenere il proprio stile di vita. Quindi il 36% delle persone intervistate giustifica il fatto di tenere una così alta quota del patrimonio liquido proprio per garantire lo stile di vita. Quindi rimane circa un 20% sugli immobili e poi il resto su altre. Quindi gli individui ad alto reddito hanno il 26% in media del patrimonio in liquidità, contanti, esatto, diciamo, esatto. E poi un 20%, un 27%, scusatemi, sull'azionario, 20% immobili, 16% reddito fisso, quindi bot, BTP e quant'altro, e investimenti alternativi 10%. Ma chiedono anche prestito, mi sembra che ci sia una certa componente di prestiti, quindi di ricorso al credito anche per gli individui ad alto reddito, capito bene? Questo è un dato interessante, sì, il 18% di questi asset è finanziato da denaro appreso a prestito dalle istituzioni finanziarie. Chi fa ricorso al prestito, tra l'altro, sono le fasce a patrimonio più alte, quindi i milionari che hanno un patrimonio netto superiore ai 20 milioni di dollari. È interessante che poi c'è anche le figure più giovani, quindi circa i milionari sotto i 40 anni, un 27% utilizza il denaro a prestito, quindi impieghi per fare questo tipo di operazioni. Quindi l'accesso al credito facilitato certo. Viene trasformato in motivo di investimento. Per cui chiedi prestiti in banca, che di solito te li danno più facilmente, è inutile girarci attorno, e magari questi soldi che prendi in prestito li investi, anche perché se azzecchi l'investimento con i tassi, soprattutto esatto, in Europa e negli Stati Uniti, così bassi, ti conviene chiedere soldi a prestito, se te li danno. E sappiamo che in questi casi vengono dati, e poi investirli. La cosa curiosa è che questi individui ad alto reddito, nel ottenere consigli sulle opportunità di investimento e anche gli approccio, si rivolgono a gestori nel 30% dei casi, a parenti nel 27% e ad amici nel 22%, forse perché quando sei ad alto reddito anche gli amici sono ad alto reddito e magari lavorano con ruoli dirigenziali nelle istituzioni finanziarie. Aggiungo io questa analisi, che è più, diciamo, un vantaggio sociale dal salotto che frequenti. Ultimo aspetto, invece, le vostre previsioni, perché ripeto, al di là poi del sapere dove si collochino gli individui ad alto reddito, alla nostra industria, non solo del lusso ma anche del lusso, e questo vale anche per l'agroalimentare, non solo per la moda e il tessile, e vale anche per il legno arredo, per tutti i punti di forza del nostro Made in Italy. È interessante capire dove cresceranno di più secondo le vostre previsioni, e quindi dobbiamo attenderci comunque un ruolo dominante dell'Asia Pacifico? Allora sì, sempre vediamo da qui al 2017 una crescita anno su anno di circa l'8%, quindi ancora in linea. Io la sento molto male, alziamo il livello un attimo perché la sento molto bassa, prego. Allora, no, dicevo, prevediamo una crescita ulteriore da quel 2017 di circa 8% anno su anno, con un 10% di crescita in Asia Pacifico, che comunque rimane la regione col trend importante, una crescita molto importante in Europa, quindi circa l'8,4% anno su anno, e una crescita più lenta in Nord America, circa il 7%. Quindi tornerà a crescere l'Europa, legata a quelli che sono i segnali di ottimismo che caratterizzano un po' il momento, insomma. Quindi vi attendete che comunque l'Europa abbia un tasso di crescita buono, cioè l'Asia Pacifico più 10%, l'Europa più 8,4%, e invece più modesta la crescita del Nord America, 7%. Esatto. Sarebbe di cattivo gusto chiedere come questo si applichi alla vicina greca, immagino che la Grecia non sia uno dei paesi in cui questo si verificherà di più, lo dico però perché adesso andiamo ad analizzare, dopo le informazioni sul traffico, anche gli sviluppi del vicenda greca. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Bomi si quota su AIM Italia, info su bomigroup.com. Vi presenta Focus Economia. Well, our view as economists observing European economy has changed on that. Il nostro punto di vista come economisti che osservano l'Europa è cambiato. Se avessimo considerato alcune delle economie europee nelle fasi pre-crisi, molti avrebbero detto: non ci dobbiamo preoccupare degli squilibri delle partite correnti. Per quel che riguarda questo aspetto all'interno dell'Unione monetaria, a un certo punto non se n'è più parlato, ma si è riscoperto nel tempo che poteva essere un problema non solo per l'Unione, ma anche per i paesi circostanti. Le partite correnti funzionano come un flusso. Se si spende di più di quanto si porta a casa, questo diventa un gran problema, non anno su anno, ma sul lungo periodo. Il debito aumenta e diventa un vincolo che blocca la crescita. Quando questo si verifica, una serie di parametri cambiano con l'evoluzione dell'economia. La crescita, il finanziamento del debito, cose non facilmente identificabili, ma che dicono in maniera chiara quanto il debito bloccherà la crescita. Sappiamo che l'Europa ha una vulnerabilità di questo tipo sui mercati finanziari. If a country grows faster than its trading partners, then it is very likely that it has a very strong need for imports. Se un paese cresce più rapidamente dai suoi partner commerciali, vi sarà effetto sulle importazioni. La crescita della domanda aumenta rispetto a quella dei partner e quindi, anche se i tassi di importazione sono comparabili a quelli di altri paesi, in termini di volumi si finisce per importare più di quello che si esporta. Si tratta di un fenomeno naturale. Se un paese recupera rapidamente, poi creerà una capacità in linea con questa crescita, ma la fase di recupero è una fase di vulnerabilità complessiva, perché c'è una bilancia commerciale negativa che spesso si riflette sulle partite correnti nel loro complesso. Questi squilibri commerciali diventano il tallone d'Achille dei processi di recupero. In Europa abbiamo una serie di particolarità legate a questo aspetto. Di norma, quando ci sono squilibri nelle partite commerciali, questa domanda aggiuntiva va finanziata attraverso finanziatori esteri. Se le cose funzionano bene, le economie in recupero diventano interessanti per tutti coloro che vi investono, perché ci si aspetta un'accelerazione della crescita in futuro, quindi tutti sono disposti a investirci. In Europa l'economia pre-crisi, durante il lungo processo di integrazione dei suoi mercati, ha portato a mercati finanziari altamente integrati. La Banca Mondiale ha evidenziato un fenomeno particolare. C'erano consistenti flussi di capitale che andavano dai paesi più ricchi a quelli più poveri. Al di fuori dell'Europa il fenomeno era invertito. I capitali andavano dai paesi poveri a quelli ricchi. Quindi la convergenza che si stava realizzando in Europa prima della crisi era alimentata da questo flusso che andava dai paesi del centro-nord Europa a quelli più poveri del sud. Un'altra caratteristica specifica dell'Europa sono i regimi valutari. Molti paesi nella periferia europea stanno creando dei rapporti di cambi fissi. Per esempio, i paesi dei Balcani hanno optato per un regime valutario piuttosto rigido nei casi in cui non siano entrati nell'euro. Oh, quelli che avete ascoltato sono alcuni dei passaggi di una lectio magistralis che ha tenuto l'economista Michael Landesmann del Vienna Institute for International Economic Studies nel corso delle conferenze organizzate da Edison Open for Expo, dedicato proprio alla convergenza e divergenza, i problemi degli squilibri esterni nell'economia europea. Perché adesso parliamo di Grecia, ma non deve sfuggire a nessuno che il problema complessivo dell'area euro è appunto dovuto a queste mancate convergenze. Da un lato i paesi con troppo debito e deficit, tra cui c'è l'Italia sul debito, in parte anche sul deficit, la Francia sul deficit, il Portogallo, la Spagna, la Grecia. Dall'altro paesi che invece hanno un surplus nelle casse, diciamo, dello Stato e secondo quanto anche era previsto dal patto di stabilità dovrebbero spendere un po' di più. E diciamo è quello che è sullo sfondo del tema greco, fermo restando che poi la Grecia ci sta abituando a una cronaca o telecronaca che ricorda quasi più lo sport che non l'economia e la politica economica. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Adriana, la riprendiamo perché evidentemente non sente il collegamento da Bruxelles. Su questo, dicevo, oggi che cosa ci ha riservato la Grecia? Ci ha riservato un premier greco come Tsipras che dice: siamo pronti a un grande no e a un cattivo accordo. Un grande no a un cattivo accordo, e ha poi ribadito la nostra proposta soddisfa le esigenze delle istituzioni. Le fonti europee da parte loro rispondono: no, abbiamo fatto noi grandi concessioni alla Grecia su tutte le questioni di bilancio e non solo. Juncker dice: stiamo cercando di favorire un accordo con la Grecia. Nuova telefonata nel pomeriggio tra il Presidente della Commissione Europea e il Premier Tsipras. Schäuble ammette che si prepara a un fallimento del negoziato come ipotesi concreta, sostanzialmente abbiamo anche ascoltato nella prima ora del programma il vicepresidente della commissione responsabile per l'euro, Valdis Dobrovskis, dicendo: Atene deve dire quello che vuole, non solo ciò che rifiuta. Ecco il barometro. Cerretelli con noi, buonasera Adriana. Buonasera. Allora, bellissima alcune parti di questo intervento di Landsman, tutto giocato su quello che non funziona in Europa, la convergenza che non c'è, gli squilibri, chi ha troppo debito e chi è troppo, diciamo, braccino corto, ha troppi soldi in cassa. Noi dobbiamo occuparci in maniera più prosaica di questa trattativa sfinente, dicevo, che ha sfinito anche i mercati che oggi hanno preferito non reagire. Il barometro come butta? Ma il barometro butta che questa volta siamo veramente sull'orlo del precipizio, nel senso che io continuo a sperare che il buon senso prevalga da tutte le parti. E lo dici giustamente ogni volta, fai bene. Ecco, esatto, però ogni volta che, diciamo, si sprecano le occasioni, ogni volta che si avvicina la scadenza, diciamo che i timori che il mio cauto ottimismo possa invece rivelarsi sbagliato aumentano. Io resto con sempre dell'idea che si dovrebbe fare l'accordo, però il gioco sta sfuggendo di mano, nel senso che è chiaro che potrebbero essere delle rigidità dovute al fatto che fino all'ultimo non si fa tattica, diciamo. Però è anche vero che in giro si sente molta esasperazione, cioè da una parte c'è questa Grecia che con Tsipras dice basta umiliazioni, dall'altra c'è l'Europa, l'Eurogruppo, che dice basta frustrazioni, non ne possiamo più di questa gente con la quale non si riesce a negoziare. Sul fondo, secondo me, c'è sempre un solo problema, che la questione greca non ha senso, diciamo, esasperarla, perché vale il 2% del PIL e il 3% del debito, perché se la Grecia fallisce, tutti i soldi che le sono stati prestati li perderemo, e quindi il costo sarebbe sempre maggiore rispetto al costo di un accordo. Io resto profondamente convinta di questo e dunque continuo a sperare che l'accordo ci sia, però se guardo l'atmosfera, se guardo gli umori, comincio a dubitarne anch'io. Sì, giustamente dice un ascoltatore, scrive un ascoltatore, dilettanti e negoziatori greci, questo è quello che gli hanno detto due giorni fa a livello europeo, beh forse è contrario, visto che la Grecia con un peso di meno del 2% del PIL sta tenendo in scacco l'Europa da 5 anni. Diciamo che l'Europa si è messa in una posizione per essere tenuta in scacco, ecco, se vogliamo. Però è anche vero quello che sottolinea l'ascoltatore, che forse sono meno dilettanti di quanto non li vogliamo descrivere, Tsipras e Varoufakis, visto che stanno tenendo botto. Tu dicevi può essere un elemento di tattica estrema, ma ormai siamo veramente agli sgoccioli. C'è il tema di non perdere la faccia per quello che riguarda l'Europa, però attenzione, al 30 giugno scade il 1,6 miliardi del Fondo Monetario Internazionale, e quello diciamo è l'inizio del default greco, se la Grecia... Sì, c'è anche il fatto che tecnicamente ci vogliono altri 2 mesi prima che il default sia dichiarato, quindi c'è chi dice che di fatto ci sono altri 2 mesi per questa pena. Cioè ci faremo invece che un'estate in Grecia, un'estate sulla Grecia, e io mi sento già male, però va bene, prego. Sì, quindi ecco, c'è questo escamotage possibile, però secondo me... Se la si vuole salvare, la si deve salvare adesso, in sostanza. Quello che dicevi sui greci, i greci sono sempre, per tradizione, dei bravissimi negoziatori. Anche al tempo del vecchio Papandreou, Papandreou padre era duro addirittura più della Thatcher ai tempi in cui negoziavano con l'Europa, ciascuno per i propri soldi, Papandreou per i soldi di fondi strutturali di coesione alla Grecia. Quindi Tsipras rientra un po' nella tradizione del suo paese, però secondo me forse, essendo una classe politica completamente nuova, cioè prova un po' tanto un gusto con i bluff che non vorrei che gli sfuggissero di mano, nel senso che Sento il barometro Ceretelli più verso il brutto del solito. No, non capivo perché mi scrivessero gli ascoltatori, sembravi Rocky, e poi ho capito, per Adriana, ti avevamo evocato perché non ti sentivamo. Speriamo che tu ti sbagli, cioè speriamo che il barometro segni. No, ho capito benissimo. Sperare, però gli elementi negativi aumentano, ecco, cioè No, assolutamente, anche quello che Tsipras ha detto oggi. Ahimè, per carità, può essere tecnica e tattica negoziale, ma è un ulteriore passaggio non verso una soluzione, ma verso una sconfitta per entrambi, pronti a un grande no a un cattivo accordo. Grazie anche per oggi Adriana Ceretelli, sta diventando quasi un appuntamento fisso, ma non è oggettivamente colpa nostra, né tantomeno di Adriana Ceretelli. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.